Europa e il turismo, è il significato che ha il turismo per l'Europa, questa risorsa, questa opportunità, questa grossa anche riserva d'ossigeno per l'economia. E ne parliamo con Francesca Tudini, che è della Direzione Generale Turismo della Commissione Europea. Buongiorno Francesca, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno Federico, grazie per questa opportunità di parlare del turismo in Europa e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Adesso andiamo subito a sfatare un mito, ma una persona che lavora nella Direzione Generale del Turismo viaggia molto o come sempre chi c'è dentro fa viaggiare gli altri? No, fa viaggiare gli altri, viaggia poco perché lavora tanto, abbiamo tantissimo da fare sul turismo. Abbiamo una forte spinta politica e finalmente il turismo è diventato una priorità della Commissione europea, non lo era negli anni passati e adesso lo è sicuramente, per cui c'è moltissimo da lavorare. Ecco, quali sono le linee sulle quali si sta muovendo l'Unione europea per la promozione del turismo in Europa? Guarda, io direi una sorta di strategia 3D. Destagionalizzazione prima di tutto, vogliamo allungare la stagione turistica, sfruttare al meglio le infrastrutture e dare più lavoro alle persone che altrimenti hanno poco lavoro e nei periodi di alta stagione basta. Vogliamo delocalizzare perché vogliamo favorire comunque un certo spostamento dei flussi turistici dalle località che sono intasate a quelle che sono più sconosciute ma che vale la pena visitare, noi le chiamiamo le gemme nascoste d'Europa. E vogliamo diversificare l'offerta, abbiamo dei prodotti turistici pazzeschi in Europa, come gli itinerari culturali, penso che se ne parlerà più là nella trasmissione, sì. Li dobbiamo assolutamente valorizzare. Vogliamo aumentare i flussi turistici e questo favorendo più turismo intra-Europa, ma soprattutto aumentare i flussi turistici dai paesi terzi. Abbiamo un'iniziativa, adesso che l'ha voluta lanciare il nostro commissario Tajani, il vicepresidente Tajani, una iniziativa chiamata 50.000 turisti, vogliamo attirare 25.000 turisti da Brasile, Cile e Argentina nella nostra bassa stagione. E poi che vogliamo fare? Vogliamo anche che siano usati meglio gli strumenti finanziari che l'Unione Europea mette a disposizione delle autorità nazionali, dei locali, regionali, dei privati, per esempio i fondi strutturali. Devo dire che questo vuole essere un messaggio alle autorità nazionali perché purtroppo non eccellono in questo campo. Certo. Invece c'è tanto materiale su cui lavorare. Francesca, si parla anche di nuove forme di turismo, turismo lento, etichettato in maniera forse frettolosa e banale, ma che vuol dire tanto, il turismo sostenibile, il turismo culturale, come prima hai accennato tu. Sono nuove forme anche di opportunità economica? Cioè è un turismo che porta beneficio? Assolutamente sì, stiamo mettendo su un osservatorio europeo del turismo che studierà appunto, analizzerà bene queste nuove tendenze, queste nuove domande per fornire a tutti gli attori, alle autorità nazionali ma anche ai privati e tour operator, quei dati che serviranno a modellare l'offerta per andare incontro alla nuova domanda. Abbiamo delle classi emergenti dalla Russia, dalla Cina, abbiamo dei senior che adesso hanno più possibilità di viaggiare, più tempo libero e molti più soldi di prima per viaggiare e assolutamente la nostra offerta si deve adattare a questa domanda per essere competitiva. E un'ultima domanda, Francesca, il turista è sempre uguale o ci sono comunque nuovi turisti e soprattutto l'Europa può essere terra di sperimentazione di nuove forme di turismo? Certo, no, ci sono nuovi turisti, ci sono nuove richieste, tantissime richieste, ci sono nuove opportunità da sfruttare, non dobbiamo restare ancorati ai modelli passati di turismo, dobbiamo andare incontro al turista, dobbiamo cercare di rispondere alle sue nuove esigenze e quello che vogliamo fare è creare veramente, partire da un altro approccio, creare l'offerta sulla base della domanda. È per quello che stiamo lavorando con tutte le autorità nazionali, siamo in continuo contatto con tutti gli stakeholder del settore per capire come modellare meglio questa offerta e per offrire il meglio che si possa essere. Siamo la destinazione numero uno al mondo, vogliamo restarla assolutamente e a livello di Commissione europea quello che posso dire è che vogliamo aggiungere una dimensione Europa a tutto quello che le autorità stanno già facendo. È molto, ma c'è ancora molto da fare sicuramente.